500 italiano inaugura la stagione del filodrammatici a Milano. Si tratta della Mandragola, felice invenzione scenica del più illustre politologo, almeno il capostipite della predetta categoria. Si allude a Ser Niccolò Machiavelli, fiorentino. Una breve scena per incominciare. Dove un bene certo e un male incerto, non si deve mai lasciare questo bene per paura di quel male. Qui un bene certo che voi ingraviderete, acquisterete un'anima messer domine Dio. Il male incerto è che colui che iacerà dopo la pozione con voi si muoia, ma si trova anche di quelli che non muoiono. Oltre a questo il fine si ha da riguardare in tutte le cose. E certo, questa è di Fra Timoteo, interpretato da Gianni Quillico, una delle battute più significanti della Mandragola. Il capolavoro di Machiavelli sarà riproposto al Filodrammatici nell'allestimento presentato l'estate scorsa con la regia di Enrico D'Amato e con le scene di Lorenzo Ghiglia, scene che non perdono nulla della loro suggestione, no? Anzi, direi che al chiuso, oltre che essere esteticamente migliori, assumono un significato più pregnante. Ecco, chiediamo sempre a Pari De Calonghi di ricordarci le novità di questa edizione autunnale, diciamo. Ma nessuna novità per quanto riguarda l'impostazione e la recitazione, che rimane identica a quella di quest'estate. Solo alcuni interpreti sono cambiati. Cioè? E cioè Nietzsche, che era interpretato da Lorenzo Grechi, che è indisposto, sarà interpretato da Ennio Groggia. Sostrata, interpretata da Miriam Crotti, sarà interpretata da Liana Casartelli. E Callimaco, che era interpretato da Giampiero Bianchi, da Marco Balbi. Bene, e sentiamo allora Marco Balbi nella parte di Callimaco insieme con Pari De Calonghi nella parte di Ligurio in una breve scena del quarto atto di questa Mandragola che sarà data da stasera al Teatro Filodrammatici di Milano. Questi innamorati hanno l'arriento vivo sotto i piedi. Ligurio, che novelle. Buone. Buone in verità. Ottime. E Lucrezia è contenta. Sì. E il frate fece il bisogno. Fece. Oh, benedetto frate, io pregherò sempre Dio per lui. Ma buono, come se Dio facesse le grazie del bene come del male. Il frate vorrà altro che prieghi. Che vorrà? Danari. E regliene, quanti gli hai promessi? 300 ducati. Hai fatto bene. E il dottore me ne ha già sborsati 25. E la madre di Lucrezia che ha fatto? Quasi il tutto. Come intese che la sua figliuola aveva avere questa buona notte, santa, peccato, non resto mai di pregare, di comandare, di confortare la Lucrezia. Dio, ma per quali miei meriti debba io avere tanti beni? Io a morire per l'allegrezza. Ma che gente è questa? O per l'allegrezza o per il dolore, costui vuol morire in ogni modo.